Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. 17-18 minuti, inizia con leggerissimo ritardo oggi la puntata. Chiediamo bene, c'è stato un problema organizzativo che adesso è stato risolto. E no, non mi hanno sequestrato i Benetton come stanno scrivendo alcuni ascoltatori, onestamente, né sono stato sequestrato dalla rete autostradale. Chiaramente ci occuperemo dell'accordo, un accordo che è stato anche, come vi hanno ricordato i nostri GR24, ha avuto una reazione inequivocabile in borsa. Atlantia infatti guadagna il 24,70%, qui bisogna capirsi, non è una reazione, diciamo, di carattere politico sull'accordo, è chiaramente, se si allontana lo spettro di un fallimento del titolo quotato in borsa, lì il tema riguardava la revoca e il contenzioso, è chiaro che il titolo, dopo aver perso moltissimo in queste sedute, va a recuperare quasi tutto. Secondo il miglior titolo, Leonardo, che nulla c'entra con questa vicenda, chiaramente più 7%, 5,30 il rialzo di Buzzi Unicem, il 5% di Azimut, il 4% di UbiBanca, il 3,70% di Prismian e anche di Pirelli, il 3,30% di STMicroelectronics. Chi cede oggi? Nessuno. Tra l'altro tutte le borse sono ben, nessuno tra i titoli di maggiore capitalizzazione, chiaramente tutte le borse sono ben intonate, perché se Milano guadagna il 2,30%, Parigi fa il 2,5% di rialzo, Francoforte più 2%, Londra più 2,10%, Dow Jones più 0,70%. Passano in qualche modo in secondo piano i timori sul contagio. Tra l'altro le trimestrali americane oggi, ieri non hanno dato dei grandissimi risultati, anzi, però oggi, senza fare troppe spiegazioni quando le spiegazioni non ci sono, oggi dominano gli acquisti in tutta Europa, appunto rialzi intorno al 2%. Ci occuperemo appunto dell'accordo raggiunto sulla società autostrade, ma anche del Consiglio europeo di questo prossimo fine settimana, perché oggi il Premier ha riferito alla Camera in vista del Consiglio del 17-18 luglio. Domani Conte, domani in serata a Bruxelles, ha confermato l'incontro con Macron. Macron vedrà anche appunto Angela Merkel e Charles Michel. Quindi tutto un insieme di incontri preparatori dopo il giro che ha già fatto nelle varie capitali europee in questi ultimi giorni. Gli analisti, molti mi stanno scrivendo ovviamente di Atlantia, gli analisti promuovono l'accordo, anche se resta poi il tema del valore di Aspi, però l'operazione, adesso la racconteremo, c'è comunque un aumento del capitale per Cassa Depositi e Prestiti e questo diluirà la quota di Atlantia, ma soprattutto la governance, come si dice in gergo, e quindi chi avrà i bottoni, chi sarà nella stanza dei bottoni, cambierà radicalmente, perché con l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti da perfezionarsi entro un anno con il 51%, Aspi, Autostrade per l'Italia, diventerà di fatto una public company. Verrà fatta la revisione della concessione dei risarcimenti dai risarcimenti alle tariffe. Niente revoca ad Aspi, non ad Atlantia, che è in questo momento il socio più forte con l'88%, ma ad Autostrade per l'Italia, niente revoca delle concessioni a meno di inadempienze rispetto all'intesa. Il via libera, come sapete, è arrivato all'alba e CDP, Cassa Depositi e Prestiti, avvierà entro il 27 il percorso per l'uscita progressiva dei Benetton attraverso Atlantia, e quindi prima il 10-12% dell'azionariato e poi, quando si quoterà in borsa Autostrade per l'Italia, un'ulteriore diluizione. Secondo quanto riportò oggi da Sole 24 Ore, tra l'altro, Blackstone, perché qui c'è l'ingresso della CDP, ma non solo, il fondo Blackstone risulta fra i principali candidati a entrare nel capitale di Autostrade per l'Italia, appunto accanto alla Cassa Depositi e Prestiti F2I, con un investimento di alcune centinaia di milioni. Il tavolo comunque negoziale pubblico-privato si aprirà entro il 27 luglio. Allora, qualcuno contesta il termine public company, per carità. La public company in realtà è nel mondo anglosassone una società che ha un controllo talmente parcellizzato, talmente appunto diffuso da risultare con il termine public. Qui il caso è un po' diverso perché CDP entra con una quota significativa, poi vedremo anche i singoli dettagli. L'ipotesi però, perché si è ragionato oggi sui giornali di public company, è che nel momento in cui tu andrai a quotare Autostrade per l'Italia, la quota, diciamo, in flottante, la parte, diciamo, contendibile in borsa sarà molto alta e l'azionariato sarà in parte pubblico, non public, e in parte privato e in parte anche retail, quindi dei risparmiatori. Ecco perché si dice, rispetto all'assetto attuale in cui l'88% di Autostrade per l'Italia è in mano ad Atlantia, e quindi tutto possiamo dire tranne che manchi un azionista di maggioranza assoluta e totale, il nuovo soggetto Autostrade per l'Italia, quando sarà quotato, avrà una distribuzione del capitale molto diversa da quella che ha attualmente Autostrade per l'Italia, che non è quotata in borsa è solo Atlantia. 349-238-6666 per sms e whatsapp. E allora andiamo, qualcuno dice no golden share alla francese, attenzione, perché insomma, qui la golden share è una quota di capitale pubblico che si usa nei settori strategici per mantenere gli interessi dello Stato e della collettività anche in un soggetto che è stato privatizzato, ma non mi sembra il caso qui, visto che entra la CDP, ed che è già pubblica, nel senso non c'è bisogno di un ulteriore golden share. Comunque ne parleremo fra poco. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dal bollettino di come stanno andando le misure messe in piedi dal governo nei vari DPCM per garantire liquidità e, diciamo, una parte di ristoro economico agli italiani. Allora, i volumi delle moratorie sui prestiti sono elevati e sono oltre 2.600.000 per un valore di quasi 290 miliardi. Superano le 830.000 invece le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari, quelli che fino a 30.000 euro hanno il 100% garantito e poi anche nella quota che va dai 30.000 fino sostanzialmente a 800.000 euro, anche lì c'è il 100%, 90% Stato, 10% Confidi, dicevo, sono saliti a 830.000, mentre Garanzia Italia, quindi la SACE, ha concesso garanzie per 9 miliardi di euro su 215 richieste, sono per i gruppi sopra i 500 dipendenti. Devo dire che è molto importante anche come volume e valore il numero di moratorie. Ho capito benissimo che la moratoria sui prestiti non è, è semplicemente una sospensione delle rate, però aiuta anche questo quando tu non hai fatturato, non hai incassato. Per il mondo bancario semplicemente si sposta più in là la data di scadenza. Ci sono i dati anche sul reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza, e l'osservatorio statistico dell'INPS a diffonderli oggi. Tra aprile e giugno il reddito è stato distribuito a 1.200.000 famiglie per un totale di 2.900.000 persone. L'importo medio di 559 euro, mentre ci sono altre 131.000 famiglie che percepiscono la pensione di cittadinanza. I nuclei familiari che hanno fatto domanda di reddito di cittadinanza sono cresciuti del 15% rispetto allo stesso periodo rispetto a gennaio, quindi c'è stato un ricorso più forte, nettamente più forte, da quando è scoppiata la crisi della pandemia del Covid. E tra l'altro i percettori di reddito sono 2 milioni nel Mezzogiorno, la regione con il maggior numero di percettori è la Campania, 20% il totale, poi la Sicilia 18%, Lazio e Puglia 9% ognuna, e quindi in queste regioni, Campania, Sicilia, Lazio e Puglia, sta il 56% dei beneficiari. Sulle 2.900.000 persone coinvolte, 1.900.000 abitano nelle regioni del sud e delle isole, 580.000 nelle regioni del nord, 390.000 nelle regioni del centro. E l'INPS ha fatto sapere che finora per il reddito e la pensione di cittadinanza sono stati spesi quasi 7 miliardi e 200 milioni di euro. Poi c'è anche il reddito di emergenza, che è andato a 209.000 nuclei per circa 518.000 persone coinvolte, un importo medio mensile di 570 euro. Le famiglie che hanno richiesto il reddito di emergenza sono state 455.000. Però erogate sono stati 209.000. Poi ci sono anche 148.000 famiglie che hanno perso il diritto al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza. Nello specifico 128.000 hanno perso il diritto al reddito e 20.000 alla pensione di cittadinanza. Poi il ministro del lavoro Nunzia Catalfo ha detto che rispetto per quello che riguarda le integrazioni salariali, l'INPS deve ancora erogare 370.000 integrazioni rispetto ai 3 milioni di domande presentate il 7 luglio scorso. E per quello che riguarda i lavoratori, si tratta di 3.120.000 lavoratori, ne sono stati pagati 3.030.000, quindi risultano ancora 89.000 i lavoratori che devono avere un'integrazione al reddito. Ancora due notizie prima di passare al primo tema, che non sarà autostrade, dedicheremo una lunga pagina su questo, ma sarà la sentenza, diciamo, che è arrivata dal Tribunale dell'Unione Europea, che è una doccia gelata per la Commissione Europea quanto a tassazione dei big, del web. Ma adesso vi arriviamo, perché c'è ancora una notizia che riguarda l'Italia, e ossia l'andamento dell'inflazione. Allora, è confermata a giugno la deflazione, cioè i prezzi complessivamente calano, meno 0,2% rispetto al giugno dell'anno precedente, ed è un meno 0,2% che è identico a quello di maggio rispetto a maggio 2019. Non c'è deflazione al sud, anzi al sud i prezzi sono leggermente cresciuti dello 0,1%, Napoli è una delle città con i maggiori rincari, più 0,7%, invece Verona meno 1%, Venezia meno 1,3%, il nord-est ha segnato i cali nei prezzi al consumo più importanti. Quello che però emerge di nuovo è la differenza, la forbice tra inflazione generale, prezzi al consumo, e quella dei beni a maggior utilizzo, quello che si chiama carrello della spesa, più 2,1% l'andamento del carrello della spesa, con la frutta fresca che ha fatto più 11,5% dopo il balzo dell'8% nel mese precedente. E poi l'Istat ha calcolato come va l'inflazione per le famiglie meno abbienti nel primo semestre, e ha detto sostanzialmente che per le famiglie che hanno il 20% della spesa mensile più bassa, i prezzi sono complessivamente diminuiti dello 0,5%, mentre per il 20% delle famiglie che hanno il livello più alto di reddito sono rimasti invariati. Ultima notizia, e poi andiamo su meteo e poi passiamo agli approfondimenti. L'indagine SVG Lega Coop, interessante, perché per il 53% degli italiani l'economia sta ripartendo, però e per un 41% è ancora ferma, con burocrazia, incertezza economica e politica che frenano la ripresa. Ma anche in quel 53% degli italiani che vedono l'economia ripartire, la metà ritiene che lo stia facendo lentamente, quindi senza grandi entusiasmi, mi sarei sorpreso del contrario. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina appunto di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, meteo, pubblicità e poi la doccia fredda, la gelata che è arrivata dalla giustizia europea, che ha annullato la decisione della Commissione europea sul tax ruling irlandese a favore di Apple, e quindi sostanzialmente ha dato torto alla Commissione europea, che aveva accusato l'Irlanda di aver fatto 13 miliardi di aiuti con sconti fiscali ad Apple, e quindi su questo era intervenuta. Tutto da rifare, anche perché questa questione riguarda non solo l'Irlanda ma anche l'Olanda, Cipro, Malta, Lussemburgo e Belgio, dopo il meteo. Focus Economia. minuti. Dunque, partiamo dalla sentenza della Corte del Tribunale dell'Unione Europea. La giustizia dell'Unione Europea ha annullato la decisione della Commissione Europea sul tax ruling. Che cos'è il tax ruling? È un modo per le multinazionali di richiedere preventivamente chiarimenti alle autorità fiscali per evitare successive controversie. Di fatto, però, il tax ruling è il modo in cui gli stati fanno accordi con grandi gruppi. Se sei un piccolo artigiano, l'accordo non lo fai, e colossi del web in primis, su regimi di tassazione inferiori a quello già basso, nel caso dell'Olanda, previsti per legge. Allora, la Commissione Europea si era incavolata e aveva detto all'Irlanda: no, tu devi chiedere a questo punto a Apple 13 miliardi che hai concesso di sconti fiscali, che Apple ti deve ridare. L'Irlanda dice: no, non vogliamo recuperare quella cifra che l'antitrust europeo aveva dichiarato illegale. E fin qua, diciamo, erano gli ultimi capitoli della vicenda. Alessandro Galimberti, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, ben trovato. Tu che, assieme a altri colleghi, segui tantissimo le vicende delle, diciamo, della concorrenza fiscale, ma in questo caso non è neanche concorrenza alla luce del sole, perché si va sotto il livello di tassazione già prevista in un paese. Perché il Tribunale dell'Unione Europea ha dato torto alla Commissione e quindi ragione all'Irlanda? Allora, nota velocissima, si tratta di due tax ruling del 1991 e del 2007. Stiamo parlando del paleolitico, cioè di ere geologiche fa, però stiamo parlando di 13 miliardi. Questo per dire che dal 2014 accordi come questi qua contestati, oggetto oggi della soluzione, non sono più possibili, nel senso che devono, quando comportano la tassabilità anche in altri paesi europei, devono essere condivisi. Però stiamo parlando di due accordi che comunque hanno prodotto del grande beneficio fiscale a Apple. Perché oggi accordi preventivi che erano leciti sono leciti, oggi rispetto al passato la differenza è che devono essere condivisi con altri paesi, appunto per evitare il profit shifting, cioè trasferire i profitti da un paese all'altro per inseguire la convenienza fiscale. La sentenza di oggi è lunghissima, ovviamente è stata pubblicata in inglese, va studiata approfonditamente, ma già ci sono alcuni punti che secondo me sono paradossali e che spiegano come questa vicenda siano davvero difficilmente comprensibili. Uno dei punti che il Tribunale contesta alla Commissione per revocare con la maxi recupero di fiscalità di 10 miliardi che l'Irlanda non voleva è il seguente: le due società con test branch, i due rami d'azienda con oggetto di questa indagine, l'ASI e l'AOE, sono sostanzialmente due, come definire, due veicoli creati da Apple in Irlanda. Il Tribunale dice alla Commissione: ma sei sicura, cioè, adesso ovviamente la volgarizzo, la traduco, sì, certo, ma il senso è questo: ma sei sicura che su quelle due piccole branch, su quei due piccoli rami siano stati prodotti utili per decine di miliardi di dollari? E la risposta è paradossalmente, guarda, questo è il paradosso, siamo arrivati all'assurdo vero e proprio, paradossalmente è vero, quelle società non potevano produrre quel reddito perché, nota il tribunale, di fatto non hanno neanche dipendenti, sono dei semplici veicoli. E allora dice: se il reddito non è stato prodotto lì da quelle due micro branch, non puoi pensare che l'Irlanda dovesse tassare una ricchezza non prodotta lì. E poi sappiamo, la storia ci ha insegnato, che queste micro società, in quei tax ruling, quegli accordi fiscali, erano semplicemente dei trampolini per rimbalzare altrove i redditi prodotti. Sì, è quasi un dire, siccome è una scatola, tradico male, è una società appunto che serve solo da paravento. Il paravento, esatto, non può produrre, la scatola non può produrre utili, quindi... Ma non tu vuoi tassare un paravento, capisci il paradosso? Sì, allora vero, no? Domani tutti costruito quanti ci mettiamo... Costruito per evadere le tasse, non puoi imputargli dei redditi a quelle società perché non hanno prodotto redditi. Quindi siamo arrivati al paradosso ultimo. Perché questa sentenza è importante? Perché fa chiarezza sul passato, però sul futuro questo tipo di ragionamento, questo tipo di costruzione dal 2014 non è più possibile. Ecco, su questo volevo avere la tua ultima risposta, perché Noi abbiamo dei dati in cui l'Italia, per esempio, rispetto all'aliquota ufficiale del 28%, si scende al massimo di sconto a 26,9%, ma invece in Belgio l'aliquota formale può passare dal 30% al 3%, a Cipro dal 13% allo 0%, in Irlanda dal 13% allo 0%, in Lussemburgo dal 26% allo 0,3%, Malta dal 35% al 5%, l'Olanda dal 25% al 2,4%. L'Italia avrebbe perso quasi 24 miliardi di dollari di profitti nel 2019 da tassare, e il 19% dei ricavi della tassazione delle multinazionali, perché 21 sono andati nei paesi europei, tra cui anche la tanto austera Olanda, che ne ha avuti 3 miliardi e mezzo. Allora, questa è concorrenza fiscale o è tax ruling? Questa è concorrenza fiscale ottenuta mediante il tax ruling. Sembrerà assurdo da dire, ma così. Certo. Bisogna, ne abbiamo detto altre volte, dovremmo ripeterci, è opportuno che la UE si dia delle regole fiscali comuni, perché altrimenti il vantaggio competitivo, fin quando sarà consentito ottenerlo mediante la fissazione di aliquote societarie differenziate, cioè la Romania si paga il 10%, in Bulgaria pure, e poi scende il tax rate effettivo, in Italia siamo ancora a 24,5% che non scende. Allora, fin quando sarà possibile fissare aliquote diverse e giocare dentro queste aliquote con tax ruling, è evidente che noi continueremo a svuotare il mare con il secchiello. Sì, qualcuno mi dice, lei vuole portare la tassazione a livello europeo come quella italiana, il salasso italiano? No. Il problema è un po' diverso, è che tu scegli la tassazione che, per carità, però poi se gli accordi con i grandi, perché questo va a vantaggio dei grandi, non è che se domani un piccolo artigiano imprenditore va in Olanda o a Cipro gli fanno dal 13 allo 0, che già il 13 è poco, o in Belgio dal 30 al 3%. Il problema è che poi sono accordi governativi e quindi non è semplicemente tu fissa la tassazione che vuoi e poi te la giochi sulle entrate fiscali e spese e vediamo chi è più bravo. Qui è andare oltre anche il livello diciamo, formale. Tra l'altro non mi raccontate che Cipro, Lussemburgo, Malta e Olanda, Belgio sono dei colossi industriali, a dire, sai, uno va a farsi tassare lì perché è un grande paese. Sono paesi che vivono anche di questo, Alessandro. Sebastiano, se mi consenti un'ultima considerazione. Uno studio fatto dalla Banca Europea, ripreso dalla Banca d'Italia, abbiamo pubblicato sul Sole qualche settimana fa, dimostra che questa concorrenza fiscale, la possibilità di fissare aliquote diverse, accordi diversi, ha portato negli ultimi 10 anni a una costante diminuzione delle aliquote in tutti i paesi e a una costante diminuzione del gettito. Allora un problema esiste, perché se oggi vengono meno, così associamo le due notizie, i 13 miliardi dell'Irlanda, che l'Irlanda avrebbe dovuto mettere nel bilancio, attenzione, europeo. Europeo, certo. Quindi l'Europa si fa del male due volte, perché per inseguire ovviamente un vantaggio egoistico nazionale che è consentito dalle norme, oggi Gentiloni per la prima volta, sappiamo Gentiloni chi è, ha detto non definiamoli paradisi fiscali europei, perché non sono paradisi fiscali, sono paesi competitivi, paesi cinici ma non paradisi fiscali. Allora la creazione di queste osi determina effetti negativi a catena per l'Europa, o l'Europa dice, si rende conto che alla fine è se stessa che perde complessivamente, perde di gettito, perde di aliquote, perde di qualsiasi cosa, ma si avvantaggiano altre parti del mondo, perché ormai non siamo più il centro del mondo, se no il nostro declino anche da questo punto di vista sarà magari più lento per alcuni, più veloce per altri, ma appare segnato. Allora, grazie anche ad Alessandro Galimberti. Adesso c'è il traffico, poi andiamo a ragionare sull'accordo, sulla proposta che è arrivata all'alba del governo ad Atlantia, Autostrade per l'Italia. Attenzione, lo dico già a chi sta scrivendo, a distinguere molto tra Autostrade per l'Italia, che in cui in dubbio, in ballo c'era la concessione ad Aspi, e da lì le cifre che abbiamo visto, 19 miliardi di buco se Aspi perdesse la concessione, da Atlantia, che è l'azionista enorme, ha l'88% attualmente di Autostrade per l'Italia e a sua volta dentro il 30% è controllato dai Benetton con sintonia, ma sono due soggetti diversi, perché se uno continua a scrivere Atlantia al posto di Autostrade per l'Italia o Autostrade per l'Italia al posto di Atlantia, non si capisce quello che è stato deciso, e cioè che si vada a quotare in borsa Autostrade per l'Italia, che Atlantia scenda ed esca dal capitale di Aspi, di Autostrade per l'Italia. Il tema del buco da 19 miliardi degli azionisti, dei dipendenti, riguardava in primo luogo Autostrade per l'Italia, che se avesse perso la concessione sarebbe de facto fallita con tutte le conseguenze. Poi c'era il tema invece del risarcimento, il rischio risarcimento che il milleproroghe portò a 7 miliardi, ma era calcolato in 23 miliardi sulla base degli accordi, per aver revocato la concessione. Ma sono risarcimento, rischio risarcimento e bancarotta, diciamo, di Autostrade per l'Italia non c'entrano con Atlantia in questo caso, se no quello che è stato deciso questa mattina all'alba non si capisce. Noi cercheremo di spiegarlo dopo il traffico. Nonostante questa crisi abbia picchiato duro, nonostante un futuro che sembra si sia fermato, nonostante poche agevolazioni e tante complicazioni, nonostante tutto quello che è stato fatto per scoraggiarmi, io sono ripartito. Sono un imprenditore, sono un artigiano e per fortuna non sono solo. CNA è al tuo fianco per ripartire. Guardiamo avanti, insieme. CNA.it. Focus Economia. Minuti, quindi attenzione, perché se l'obiettivo della, vedo molti messaggi su vicenda Autostrade per l'Italia, era far uscire, come dicono molte volte 5 Stelle, ma insomma, i Benetton, che poi in realtà sarebbe Atlantia, perché dentro Atlantia i Benetton sono l'azionista di gran lunga di riferimento, che hanno il 30%, e Atlantia a sua volta ha l'88% di Autostrade per l'Italia. Se l'obiettivo era quello, la proposta del governo e la citazione va in quella direzione, e adesso spiegheremo perché. Se invece alcuni che si lamentano avevano come obiettivo che Autostrade per l'Italia perdesse la concessione, io personalmente ritengo che avrebbe creato enormi problemi, intanto per il contenzioso, anche 7 miliardi sono tanti, e poi perché sarebbe collassata la società, i suoi 7.000 dipendenti, gli investimenti promessi, la manutenzione, ma non solo la manutenzione, gli investimenti, con un buco di 19 miliardi per il gruppo Autostrade per l'Italia. Quindi dobbiamo capirci, se l'obiettivo era levare la concessione autostradale ad Aspi, questo non è stato deciso. Se l'obiettivo era fare in modo che uscissero i Benetton, Atlantia, da Aspi, da Autostrade per l'Italia, e la concessione della rete autostradale in mano ad Aspi, pari a 3.000 km su un totale di 5.900 km di rete autostradale, andasse allo Stato o comunque avesse un altro tipo di governance, l'obiettivo è stato raggiunto. Perché? Perché l'accordo è per una uscita graduale dei Benetton dalla società, e poi un altro accordo su tutti gli aspetti della convenzione, perché Aspi comunque è un soggetto che prende in convenzione la rete autostradale, in concessione, scusatemi, la rete autostradale dallo Stato. Chiaramente se Aspi non rispetterà queste richieste scatterà la revoca vera e propria. Le misure compensative ad esclusivo carico di Aspi, di Autostrade per l'Italia, quella di adesso, sono 3 miliardi e 400 milioni. Le misure compensative per la vicenda del Ponte Morandi, per la tragedia del Ponte Morandi, e poi deve accettare la disciplina tariffaria introdotta dall'autorità di regolazione dei trasporti con una significativa moderazione della dinamica tariffaria. Nel frattempo, la proposta prevede un aumento di capitale dentro Autostrade per l'Italia, in modo che la Cassa Depositi e Prestiti diventi abbia controllo, la maggioranza di controllo, e l'uscita di Atlantia e quindi di Aspi dal perimetro di Atlantia. In alternativa, Atlantia ha offerto la possibilità di cedere direttamente l'intera sua quota, cioè l'88%, alla Cassa Depositi e Prestiti. C'è un impegno per cui il controllo di Aspi, di Autostrade per l'Italia, va subito a Cassa Depositi e Prestiti, appunto, dicevo, dell'aumento di capitale. E poi nel frattempo Autostrade per l'Italia rinuncia a tutti i ricorsi sul ponte di Genova e anche sul quanto deciso dal milleproroghe, cioè che ha portato da 23 a 7 miliardi l'eventuale indennizzo. La reazione degli analisti e della borsa è stata chiara, il titolo ha chiuso con un più 26,6%. Il Presidente del Consiglio Conte dice: siamo abbastanza soddisfatti. Mi sembra che siamo abbastanza soddisfatti. È un altro dossier che abbiamo ricondotto, come dire, alla ragione, diciamo così. Poi dopo ascolteremo anche le altre dichiarazioni di carattere politico, il ministro Patuanelli e il segretario della Lega Salvini. Intanto però saluto di nuovo Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Buonasera Laura. Buonasera a voi. E grazie anche a Marco Percocco, professore associato di economia e trasporti all'Università Bocconi di Milano. Buonasera Percocco. Buonasera, buonasera a voi. Laura, in una battuta è sul GR e poi andiamo sull'analisi. Ho capito bene, ma non è una domanda retorica, cioè se bisognava far uscire Benetton, questo è il modo per far uscire Benetton, se bisognava levare la concessione autostradale ad Autostrade per l'Italia, invece no. Esattamente sì, alla fine l'accordo è stato trovato proprio perché si è deciso di dare un nuovo assetto proprietario ad Autostrade per l'Italia. La concessione rimane in capo ad ASPI, ma sarà un'Autostrade per l'Italia dove in un primo momento i Benetton saranno soci marginali, in prospettiva usciranno definitivamente. Dopo il GR24 ti girerò la domanda, e anche al professore, chiaramente, che mi stanno facendo sostanzialmente tutti gli ascoltatori. Va bene, i Benetton escono. Però non è che adesso li paghiamo, allora è chiaro che quando tu hai una quota o la diluisci con un aumento di capitale o ti viene pagata, ma non è che adesso con i soldi degli italiani ci paghiamo pure la quota del Benetton, cioè abbiamo fatto, te la traduco male, ma insomma un regalo ai Benetton dal punto di vista finanziario. Dopo il GR24 la risposta 349-238-6666 per sms e whatsapp. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. A luglio Alfa Romeo Giulietta arriva prima degli incentivi. Solo sulla pronta consegna, con il finanziamento FCA Bank hai fino a 10.000 euro di vantaggi anche senza rottamazione. Anticipo zero e prima rata gennaio 2021. Alfa Romeo Giulietta. Facile raggiungerla, difficile superarla. Iniziativa valida fino al 31 luglio, soggetta ad approvazione FCA Bank. TAN 675, TAIG 846. Info su alfaromeo.it. Eco bonus, sisma bonus, super bonus. I tuoi crediti da bonus li liquidiamo subito. Registrati su bonuschiaro.it. E tu, vuoi comprarli? Registrati su bonuschiaro.it. Il primo sito per cedere e acquistare bonus subito. bonuschiaro.it. Tigro, ci meritiamo una bella vacanza quest'anno, vero? Sì, andiamo in una bella località in montagna, fresca, vicina e tutta italiana. Italiana come Monge. I suoi croccantini hanno sempre le fonti proteiche animali come primo ingrediente. Sono senza coloranti e conservanti aggiunti e studiati per le diverse esigenze nutrizionali del vostro gatto. E poi i croccantini Monge Natural Super Premium sono made in Italy e no cruelty test. Monge, il pet food che parla chiaro, è sempre con te. Quest'estate puoi tuffarti nel mare cristallino di spiagge paradisiache, scalare le montagne più alte e ammirare panorami mozzafiato, perderti tra i borghi storici e i meravigliosi parchi e provare più di 1000 specialità diverse, senza andare lontano. Riscopri l'Italia con noi. Quest'estate raggiungi le bellezze del nostro paese con Trenitalia e goditi le tue vacanze in modo sicuro e confortevole. Info su trenitalia.com. Alessandro, non parti? Eh no che non parto. Sto aspettando che suoni l'allarme di casa, metterà in fuga due ladri. Guarda, due ladri! Come facevi a saperlo? Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipolsai. Sono i numeri uno nell'assicurazione danni e nell'innovazione. Come Unibox Casa, che ti protegge da furti, incendi e allagamenti. E controlli tutto con l'app. Scegli il futuro. Unipolsai, sempre un passo avanti. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo. Fai subito un preventivo su unipolsai.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e in collegamento con Laura Galvagni del Sole 24 Ore, col professor Marco Percocco, per commentare la proposta e l'accettazione, insomma, e la reazione di Borsa l'abbiamo già commentata su il ruolo di Atlantia dentro Autostrade per l'Italia. Ripeto, l'accordo come titolo prevede che Atlantia, e quindi Benetton, come si dice, facendo una sintesi mi viso eccessiva, perché i Benetton hanno il 30% di Atlantia, però escono da Autostrade per l'Italia, che a questo punto avrà come azionista di riferimento Cassa Depositi e Prestiti. Prima domanda per Laura Galvagni, che è quella che ti anticipavo e che fanno la maggior parte degli ascoltatori. Fermo restando che i costi di un'eventuale revoca ad Autostrade per l'Italia sarebbero stati altissimi anche per lo Stato, oltre che per il gruppo che avrebbe avuto un buco da 19 miliardi e i suoi 7.000 dipendenti. Qui sostanzialmente si fanno uscire i Benetton oppure i Benetton vanno all'incasso? Te la dico male, ma perché quello è il tenore dei messaggi. In realtà entrambe le cose, nel senso che escono ma parzialmente passano anche all'incasso, perché l'operazione prevede due passaggi distinti, prevede l'ingresso di cassa depositi e prestiti con un aumento di capitale in Autostrade che quindi va a diluire Atlantia. In questo caso i Benetton non incassano nulla, banalmente riducono la loro posizione nella società. Sì, questo va spiegato, allora, perché l'aumento di capitale, se tu porti diciamo da 1.000 a 2.000 e tu avevi il 10%, la tua quota si riduce al 5%, ma non ci guadagni né ci perdi, diciamo. Sì, rafforzi la società di cui sei azionista, quindi indirettamente hai un beneficio, perché sì, indirettamente hai sicuramente un beneficio, tanto più in questa situazione, considerato che Autostrade ha un tema debito importante, quindi l'apporto di risorse fresche sicuramente all'azienda fa bene, per cui hai un beneficio in quei termini ma non incassi nulla. Diversamente però, allo stesso tempo, il secondo step dell'operazione prevede la cessione a investitori istituzionali identificati da cassa di un 22% di Autostrade. In questo caso sarà principalmente Atlantia a vendere questa quota e in questo caso evidentemente Atlantia passerà all'incasso. A pagare però saranno degli investitori istituzionali, non lo Stato. Quindi allora è importante, perché chiaramente la domanda viene fatta sui soldi degli italiani. Quindi quando poi il 22%, fatto l'aumento di capitale, verrà ceduto a investitori istituzionali, Sole 24 Ore anticipava l'interessamento di Blackstone, ma non c'è solo questo, insomma, quello sarà un passaggio privato su privato, se possiamo dire così, no Laura? Sì, tendenzialmente sì, nel senso che poi bisogna vedere quali saranno gli attori, però si ipotizza sicuramente la presenza di un fondo importante straniero, nel qual caso appunto, come dicevi, potrebbe essere Blackstone. C'era stato anche l'interesse di Macquarie e in passato fino a qualche ora fa c'era anche l'interesse piuttosto forte di S2I, che è un fondo infrastrutturale italiano, dove sono presenti diverse fondazioni e la CDP stessa. Ecco, la domanda che però mi fanno con insistenza è: ma quindi Benetton e quindi Sintonia non ci rimettono nulla? Allora io li volevo capire, perché nell'accordo presentato e confermato comunque la misura compensativa ad esclusivo carico di Autostrade per l'Italia per l'importo di 3,4 miliardi, ma quelle le deve tirare fuori Autostrade per l'Italia di adesso con l'88% di Atlantia e quindi Benetton, o la nuova Autostrade per l'Italia? Beh, li tirerà fuori Autostrade per l'Italia, che è la stessa di adesso, ma sarà anche la stessa di quella che dovrà operare sull'infrastruttura italiana tra qualche mese, nel senso che è un intervento spalmato su un anno, mi sembra che siano, perché c'è 1,5 miliardi più o meno di riduzione della tariffa, circa 700 milioni a favore di Genova e un altro 1,2 miliardi a favore di interventi sul territorio e sulla rete ritenuti strategici. Quindi, come dire, è un conto che pagassi. Allora, a chi mi dice, ma quindi i soldi li tira fuori lo Stato? Beh, questo non c'è dubbio, perché l'aumento di capitale partecipa a CDP e quindi ed è solo lei che vi partecipa, non è che venga... Sì, partecipa solo CDP, ma CDP mette i soldi per diventare azionista al 33%, quindi non è che mette i soldi e li regala a qualcuno, li mette quei soldi in una società di cui diventerà azionista al 33%. No, sì, certo, non è... Però diciamo che la parte così non sanzionatoria, ma di danno economico per l'azionista attuale, cioè Benetton, a mio avviso non c'è qui, Laura. Se si voleva colpirli da quel punto di vista lì, l'operazione è riuscita a metà, nel senso che li vai a diluire con l'ingresso di cassa, ma li vai anche a liquidare. D'altra parte hanno l'88% della società, l'unico modo, è una società privata, l'unico modo che hai per farli uscire è o acquistare la quota o diluirli attraverso un aumento di capitale. Acquistare l'88% voleva dire mettere sul piatto almeno 8 miliardi di euro allo stato attuale, sì. Non credo che ne valesse la pena. No, e tra l'altro lì avresti acquistato realmente la quota del Benetton, giusto? Dell'88%, e andavi a comprargliela veramente. Andavi qui tu aumenti la quota e poi chiedi che il restante in mano ad Atlantia venga venduto da Atlantia a privati. Questo senso non c'è un passaggio diretto di soldi. Faccio presente a chi mi scrive: che ne abbiamo già parlato ieri e nei giorni precedenti, il tema della revoca della concessione è un tema delicatissimo dal punto di vista giuridico quando tu hai firmato quei maledetti accordi nel 2007, perché il tema dei pacta sunt servanda, come tu ricordavi ieri, poi è un tema giuridico. Se poi tu vai a perdere contenzioso, no, ci perdi i soldi dello Stato. È vero che il milleproroghe ha ridotto la quota di, diciamo, di penale di risarcimento da 23 a 7 miliardi, ma sempre 7 miliardi erano. È ovvio che non ci guadagneranno più dai pedaggi, nel senso che Atlanti avrà incassi sempre minori, ovviamente, perfino a uscirsene. Però vorrei sentire l'opinione anche del professor Percoco. Al di là del come fare a far pagare i Benetton, che in questo momento era come levare la gestione di Autostrade per l'Italia dall'azionista Atlantia, secondo me è il tema. Che ne pensa della soluzione trovata? Ma è una soluzione che serve a metà, serve fino a un certo punto, perché sicuramente è una soluzione che riguarda la governance, quindi l'assetto proprietario di una concessionaria, rimane la questione industriale, mettiamola così, nel senso che sono stati evidenziati negli anni scorsi problemi sulla manutenzione di alcune tratte autostradali, in particolare in Liguria. Rimane da capire come si riorganizzerà industrialmente Autostrade per l'Italia, una volta, come dire, stabilizzato l'assetto proprietario. Da questo punto di vista mi sembra che ancora non ci siano le idee chiare. E vado un pochino oltre, perché io credo che bisogni parlare di un paio di questioni rilevanti dal punto di vista della regolazione. Innanzitutto la tariffa, che è diversa, che riduce significativamente il tasso di rendimento degli investimenti da farsi in capo ad Autostrade per l'Italia. Questo significa ridurre comunque il valore di una concessionaria. L'altra questione invece, che secondo me è particolarmente rilevante, è che l'autorità di regolazione dei trasporti, già non ricordo se nel 2016 o nel 2017, aveva stabilito che la lunghezza massima delle concessioni doveva essere di 315 chilometri. Questo per garantire la migliore efficienza dal punto di vista della manutenzione. Mi è saltato sulla manutenzione. Allora facciamo così, c'è il traffico e poi riprendiamo il professor Percoco sulla manutenzione. Focus Economia. Allora, riprendiamo il professor Percocco che era saltato sul tema della manutenzione. Prego, professore. Sì, grazie. Scusate, io sono in treno, quindi prego, scusate gli ascoltatori. No, dicevo, la ragione per cui l'autorità di regolazione dei trasporti aveva identificato in 315 chilometri il bacino ottimale per la concessione risiedeva proprio nell'efficienza della manutenzione, quindi la riduzione dei costi e essere più efficienti su quello. Da questo punto di vista, Autostrade per l'Italia, 2700 km di rete, e io temo che, a prescindere dal mutamento della struttura proprietaria, c'è bisogno di ripensare industrialmente quella concessionaria, cioè dobbiamo chiederci se non è un po' troppo grande per il nostro sistema. Mi lascia anche aggiungere che un sistema economico avanzato come quello italiano, che modifica di fatto il mercato delle concessioni autostradali facendo controllare indirettamente, ma comunque sempre allo Stato, il 60% della propria rete autostradale, e avendo anche un'autorità indipendente che si occupa di regolazione, agli occhi di un investitore è sempre una destinazione di capitale un po' problematica, perché il rischio regolatorio è enorme. E questo è dimostrato anche dal fatto che ci sono voluti circa 2 anni per poter arrivare a capo di una problematica, e che è quella appunto delle strade per l'Italia e ciò che si è creato dopo la caduta, ahimè, del Ponte Morandi, e questo non depone a favore dell'Italia di fronte anche agli investitori istituzionali. Si parla prima di BlackRock, di altri fondi infrastrutturali. Io ricordo che fino a qualche anno fa i fondi infrastrutturali internazionali guardavano con grandissimo scetticismo l'Italia. Oggi noi abbiamo un impianto istituzionale che può fare davvero bene, che è l'impianto dell'autorità di regolazione dei trasporti, e però dobbiamo fare un passo in più, dobbiamo avviare di fatto il mercato delle concessioni, che ancora non esiste. Ho capito cosa dice lei. C'è una domanda che questo ragionamento si porta, la giro a Laura Galvagni, perché molti ascoltatori mi dicono: ma insomma, alla fine lo Stato entra, c'è un aumento di capitale, per cui Benetton, Atlantia per essere più precisi, diminuisce radicalmente la sua quota inizialmente, e poi va proprio a cedere anche quello che le resta. Però il tema delle manutenzioni, perché qui insomma, l'accusa all'azionista Atlantia e quindi alla famiglia Brenton, che è il principale azionista di Atlantia, era di avere incassato molto in questi anni a fronte degli investimenti non fatti, con quell'accordo che, colpa del 2007-2008, si fece con Autostrade per l'Italia, per cui si dice attenzione, adesso devi fare gli investimenti. Ora, Laura, il rischio non è che adesso entri il capitale pubblico e quegli investimenti che non hanno fatto i Benetton e quindi Atlantia ed Aspi li debba fare il capitale pubblico e quindi, non so come spiegarti, oltre il danno anche la beffa? Ma allora, in realtà del vecchio piano di investimenti ormai rimane ben poco, nel senso che quasi, o ben oltre, credo, stando agli ultimi dati, ben oltre l'80% era già stato portato a termine, l'altro è già stato cantierizzato, quindi in realtà di quello che è il vecchio piano Autostrade per l'Italia ancora poco da portare a termine. Adesso c'è un nuovo piano e evidentemente questo accordo è anche sulla realizzazione di questo nuovo piano. Parli dei 7 miliardi, esatto, i 7 miliardi, 7,5 miliardi, 14 miliardi e mezzo da qui alla fine della concessione. L'accordo è stato scritto anche sulla base di questo piano, in modo che si possa fare in modo di realizzare questi investimenti con una redditività che sia sostenibile per l'azienda, tant'è che evidentemente la nuova tariffa è stata tarata proprio sulla base di questo necessario equilibrio, nel senso che io non posso chiedere a una società di fare investimenti se non gli do un ritorno minimo che gli consenta, uno, di finanziarsi e due, di stare in piedi. Questo aspetto qua sì, sicuramente sarà competenza della nuova ASPI. Questo è corretto, anche perché se io come cittadino entro attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce tra le altre cose il risparmio postale degli italiani, e voglio dire, entro come soldi pubblici in Autostrade per l'Italia, non deve straguadagnarci, non so come, ma non puoi neanche perderci. Il rendimento deve esserci, perché sono soldi miei, sennò vengono bruciati i soldi pubblici. Quindi altra cosa è... E sul piano tariffario e sui tempi ti chiedo, si è capito cosa vuol dire una riduzione del 5% del piano tariffario e i tempi di questo aumento di capitale e uscita poi definitiva di Atlantia? Allora, quella riduzione percentuale del 5% è un po' misleading, nel senso che il piano attuale, l'accordo attuale preveda che 1,5 miliardi vengano destinati in generale alla riduzione della tariffa. Però è un intervento spot. Quello che più preme è il dato, che cioè il valore che è stato indicato come incremento massimo della tariffa negli anni a venire, e questo valore è stato portato all'1,75%. In un precedente accordo, quello di febbraio, era all'1,93%, attualmente era attorno al 2,22, se non erro, una cosa del genere. Quindi questo è un altro dato importante. Noi sappiamo che da qui in poi la tariffa potrà crescere al massimo dell'1,75%. Ha ragione chi mi dice che nella nuova assetto societario almeno i soldi li incasserà in buona parte lo Stato, perché CDP sarà l'azionista di riferimento. Vi faccio ascoltare, almeno questo certo. Dunque, il governo che fece la proposta di rinnovo della concessione così vantaggiosa per l'azionista Atlantia è stato il governo Prodi, poi ratificata e blindata dal successivo governo Berlusconi. Quindi su questo, guardate, si è assolutamente bipartisan. Le reazioni della politica: il ministro Patuanelli dice torna agli italiani ciò che era loro, entro settembre vi sarà la prima perdita di controllo da parte dei Benetton, che in realtà è Atlantia. Torna agli italiani ciò che era sempre stato loro. C'è un'infrastruttura importante come quella autostradale. La giustizia la farà la magistratura, ma dal punto di vista etico e politico non potevamo lasciare la gestione delle autostrade a chi ne ha causato il crollo di una parte importante, che ha portato poi a morti e feriti e a vite distrutte. Credo che sia un risultato che va affinato nelle prossime ore. Siamo soddisfatti perché abbiamo sempre detto che dovevamo togliere la gestione autostradale dai Benetton, e questo è un passaggio importante di quello che è successo stanotte. Lo Stato entra attraverso un'operazione di mercato con una serie di passaggi che porteranno Atlantia a perdere l'88%, tutto l'88% in ASPI, e questo è un risultato che non era per niente facile da raggiungere. Ci otteniamo lo stesso risultato che avremmo ottenuto con la revoca, senza passare per i rischi intrinsechi all'interno di un processo di revoca. E poi il ministro Di Maio su Facebook: i Benetton hanno accettato le condizioni del governo, lo Stato diventerà il primo azionista di Autostrade, la famiglia Benetton avrà meno del 10% delle quote, dentro qualche mese uscirà definitivamente da Autostrade per Italia. Questo significa che Benetton non gestiranno più le nostre autostrade, era il nostro principale obiettivo e ce l'abbiamo fatta. E come dicevo, se l'obiettivo era quello, la proposta è accettata, va appunto in quella direzione. Anche Di Battista, Alessandro Di Battista, schiaffo ai Benetton, il Premier Conte ha sposato la linea dei 5 Stelle, anche il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Buffagni, l'Italia non è in vendita, vince la linea dura dei 5 Stelle. Il Ministro, Capo Delegazione Italia Viva, Teresa Bellanova, bene ma si poteva fare meglio e prima. Il Capogruppo del PD a Palazzo Madama Marcucci, la soluzione trovata è una vittoria del buon senso. Il no alla revoca della concessione per Autostrade per Italia e l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in vista di una public company. Giudizio diciamo completamente opposto a quello di Matteo Salvini: nessuna revoca ma sprechi, code e cantieri fermi. Ennesima presa in giro, nessuna revoca ad Autostrade come promesso, anzi altri milioni di euro pubblici spesi e stamattina solite drammatiche code su tutte le autostrade della Liguria con cantieri fermi, quindi se dovevano passare tutta la notte per decidere di non decidere è messo male. Adesso innanzitutto stiamo pressando il Ministero delle Infrastrutture perché liberi gli italiani dalla gabbia in cui li hanno messi, non solo in Liguria ma penso alle Marche, penso alla Toscana, penso al Lazio, penso alla Lombardia, code perenni ovunque, tutti i giorni. Poi sblocchi le opere ferme, penso alla Gronda di Genova a proposito di autostrade. Poi so che c'è un'iniziativa anche alla Consob perché i prezzi delle azioni e i valori in borsa di questi giorni meritano approfondimenti. Professor Percocco, in un minuto, resta però poi il tema della verifica dei controlli degli investimenti effettuati, cioè il tema grosso dei Benetton. Qualcuno continua a scrivermi: bene, adesso loro non hanno fatto gli investimenti e adesso ho capito, c'era un accordo che non ho firmato io nel 2007 e poi nel 2008 che blindava bene l'azionista, l'abbiamo spiegato in tutti i modi possibili, con un rischio di danno e di risarcimento da parte dello Stato, però resta poi il tema di chi controlla che tu abbia fatto gli investimenti, anche se la quota è pubblica di controllo, diciamo, di Autostrade per Italia a fronte degli incrementi dei pedaggi? Assolutamente sì, perché la convenzione rimane di cui... gli attori in gioco fondamentalmente sono gli stessi e il tema degli investimenti no, non riesco a sentirlo. Giro la stessa domanda in un flash anche a Laura Galvagni. Ma sì, è fondamentale, era all'interno di questo quadro tra l'altro che dovevano essere rivisti i termini principali della convenzione, perché la tematica vera era proprio quella dei controlli e della verifica del fatto che venissero fatti gli investimenti, come venivano fatti e che seguissero una tempistica opportuna, quindi sarà la sfida sostanzialmente della nuova ASPI rispettare come dire, il calendario, ma confido che questo venga fatto all'interno di un quadro maggiormente regolamentato. Allora, grazie sia al professor Percocco che a Laura Galvagni, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.